e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, l'ultima volta che ne avevamo parlato era perché in 866 comuni che avevano deliberato in ritardo le loro aliquote non si sapeva ancora quanto pagare. Ebbene, questa informazione non ce l'abbiamo ancora, però oggi a Cuore Denari torniamo a parlare di tassazione sulla casa, non questa ma la prossima, infatti la settimana decisiva, come direbbe Alessandro Milan, per il saldo di Tasi e IMU, e dovrebbe esserlo davvero un saldo definitivo, oltretutto perché di tassazione sulla casa dal 2016 non dovremo più sentir parlare. Non festeggiare, ti vedo già che sei tutta contenta. Nella prima parte della puntata di oggi devi un attimo concentrarti, fare un po' di yoga e tenere sotto controllo queste tue esuberanze, poi spiegheremo perché. Nella prima parte della puntata oggi torniamo a fare il punto sulla vicenda delle aliquote e non solo, vi ricordiamo anche le modalità di calcolo, di pagamento, 800240024, se anche voi, come tantissimi italiani, siete interessati da questa scadenza. La data, lo ricordiamo, il 16 dicembre. Se ancora non avete provveduto, meglio procedere. Non vogliamo mettervi l'ansia, ma cerchiamo anche di farvi da promemoria un aiuto in più. Ve lo dà anche oggi l'Esperto Risponde, edizione speciale con il Sole 24 Ore, IMU e Tasi, tutto quello che c'è da sapere per pagare le imposte sulla casa. Quindi niente ansia, Deborah, anche perché c'è Cuore Denari, ma certo che con tutti questi calcoli e queste scadenze c'è un po', no, da perdere la testa. Allora, il periodo è difficile perché le tasse ci stanno col fiato sul collo, ma noi facciamo un bel respiro e proviamo ad andare avanti. È un modo di dire che mi dà la possibilità di anticipare il tema che affronteremo nella seconda parte della trasmissione, che abbiamo scelto proprio ad hoc, proprio per allentare, no, un po' le tensioni e le preoccupazioni che la prima parte di Cuore Denari scatenerà. Nella parte di Cuore dedicata alla salute parleremo di respiro, che è la cartina tornasole del nostro benessere psicofisico, dà indicazioni importanti sia sullo stato di salute del cuore che di quello dei polmoni, ma anche di quello che si agita un po' nella nostra testa e nel nostro cuore. Insomma, ci dice qualcosa delle nostre emozioni. Fate un bel respiro, ecco che mezzo litro di aria ve lo siete già assicurati. Nei prossimi 60 secondi farete ulteriore scorte, chiamate il nostro numero verde oggi per avere la carta del vostro respiro e per imparare il linguaggio del vostro respiro. Ci accompagneranno due esperti e quindi affidatevi a Cuore Denari, come sempre. Io non pago le tasse. Nel 2016, via tutte le tasse della prima casa, IMU e Tasi. Siccome l'ha detto Berlusconi, sembra che sia una cosa di destra. A differenza che poi Berlusconi l'ha rimessa, ma noi non la rimetteremo. Perché non ho più soldi dentro le tasche, ti faccio arrestare solo per avere un letto e un tetto, un pasto regolare. Dovrebbe essere alle battute finali la Tasi, la famigerata tassa sui servizi indivisibili accoppiata all'IMU per quei contribuenti chiamati a pagarla. Dal 2016 la tassazione sulla casa, come promesso dal governo, sulla prima casa quantomeno, dovrebbe sparire, ma appunto resta da pagare, non ce lo dobbiamo dimenticare, quella del 2015. Siamo arrivati a poco più di una settimana da questa scadenza, sappiamo che in molte parti d'Italia ci sono ancora dei dubbi dovuti alle delibere dei comuni ancora in attesa dell'approvazione del governo. E poi ci sarà chi si è dimenticato del saldo, chi non ha ancora fatto il calcolo, chi non sa da dove cominciare, chi si è dimenticato cosa c'è da fare. Insomma, per tutti voi ci siamo noi oggi, pronti a rispondere all'800240024. Con noi c'è anche Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Ricordiamo che oggi il Sole 24 Ore pubblica questo inserto speciale dedicato proprio a IMU e Tasi. Mauro, ciao, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Fatto il salto dopo aver fatto la rassegna stampa con Alessandro Milan, oggi abbiamo anche noi la fortuna di poterlo ospitare finalmente. Anche lui è molto fortunato a venire a Cuore Denari. Ma infatti devo dire, la fortuna non è tutta per dire, mia. Certo, io non ricordo, non ricordiamo mai, nostro. Esatto, che tra l'altro Mauro è anche il frontman di una band di successo che è Chapter 11 del Sole 24, e lo ricordo solo perché oggi a questa band è dedicato anche un bel pezzo sulla stampa dove si parla proprio di quelle band aziendali che si fanno la differenza, si organizzano per fare raccolte di fondi per da distribuire in beneficenza, insomma fate tante belle cose. Mauro, complimenti intanto. Grazie molto, il caffè è pagato giù. Ottimo. Al bar, lascio naturalmente pagato anche per Mauro tutta la settimana, sì, visto certo. La doppia citazione. No, detto questo, ma una canzone su Imo e Tasi l'avete fatta? Sì, abbiamo diverse citazioni su Imo e Tasi. Vorrei ricordare che appunto c'è stata una notevole aspettativa generata dalla presentazione della legge di stabilità per la abolizione delle imposte sulla prima casa, però al momento nulla è abolito, quindi il 16 dicembre, ohimè, si paga. Esatto. Tocca pagare. Esattamente, infatti tutte le aspettative ormai le rinviamo come tutti i buoni propositi all'anno nuovo. Saluto e ringrazio anche, naturalmente dobbiamo avere il supporto tecnico adeguato per rispondere alle domande degli ascoltatori e questo ce lo fornisce sempre Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Buongiorno Mion, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi, buona giornata e buona settimana. Grazie altrettanto. In questo inserto che abbiamo ricordato, con il suo pool di esperti ha risposto ai quesiti dei lettori, così come fa con tanta disponibilità anche a tutti quelli che ci scrivono a cuoredenari@radio24.it, naturalmente anche a chi ci chiama in diretta. Mauro, presentiamo subito questo inserto, non è un inserto per ritardatari, perché appunto lo abbiamo ricordato, ci sono ancora 15 giorni per rispettare questa scadenza, però è certamente una fase in cui è importante diffondere le informazioni aggiornate in modo chiaro e preciso. Ci sono ancora tante incertezze legate a questo pagamento, quali sono ancora i punti che possiamo definire poco chiari? Ma il primo punto lo ricordavi già tu, c'è questo problema dei comuni che hanno deliberato per così dire in ritardo. Adesso, senza voler tediare gli ascoltatori, il senso è che bisogna capire se alcune delibere di modifica delle aliquote, delle percentuali su cui pagare, sono state prese troppo tardivamente oppure no. La questione è controversa, quindi vi faccio grazia delle questioni tecniche, si rimedierà in legge di stabilità. Problema: la legge di stabilità entra in vigore al 1 gennaio, ma noi il 16 dicembre dobbiamo pagare. Con quali percentuali? Ecco, questo è uno dei punti che in 800 e passa comuni ancora sono poco chiari. Poi attenzione comunque alle aliquote, cioè noi oggi mettiamo anche a disposizione un calcolatore sul sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com, per verificare tramite anche questo sito se per caso il comune potesse aver variato le aliquote, certo, per tempo e quindi andare a controllare quanto c'è da pagare per il saldo. E poi lo dicevamo già prima, attenzione, niente è ancora stato abolito per quanto riguarda la prima casa e comunque anche ad esempio per quanto riguarda l'IMU, attenzione alle pertinenze, ma questo poi lo dirà meglio anche Mion, è uno dei punti che andiamo a spiegare, sempre ha generato confusioni. La prima pertinenza è esente per quanto riguarda l'IMU prima casa. Per pertinenza intendiamo può essere un garage, una soffitta, quindi una, grazie Debora, ogni fabbrica. Tanto viene da parlare come una circolare, chiedo scusa. Sì, come, è così, un solaio, un soffitto, un garage, un posto auto. Allora, attenzione, la prima di queste è esente, ma poi non è detto che tutte le altre lo siano, esatto, anzi normalmente non lo sono. Allora Mirko Mion, fra i quesiti a cui avete dato risposta in questi giorni, quelli che vi sono stati rivolti dai lettori del Sole 24 Ore, è possibile scattare una fotografia su quelle che sono le domande più gettonate, più frequenti? Beh sì, direi che la domanda più frequente, quindi la domanda più ricorrente, è quella legata un po' al concetto dell'abitazione principale, che a dispetto di tanti anni di applicazione di questo concetto, di fatto non è ancora poi così chiara. È un concetto fondamentale perché circa 9,7 milioni di possessori di prima casa, il vecchio concetto di prima casa, si devono sempre cimentare per verificare se effettivamente il loro fabbricato di proprietà ha questo tipo di attributo. Quindi ritengo valga la pena di ricordare quelle che sono le regole base che determinano il concetto di abitazione principale e come diceva poco fa Mauro Mazza, grazie, quali e quante pertinenze si possono assimilare. Allora, per abitazione principale si intende innanzitutto quell'immobile che viene iscritto oppure descrivibile in catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, nel quale, questo è importante ricordarlo, il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Questo è un concetto estremamente importante. Per quanto riguarda le pertinenze che venivano citate poco fa dell'abitazione principale, si intendono per pertinenze quelle esclusivamente inserite nelle categorie catastali C2, C6 e C7. Per dirle in parole in termini umani, sono sì, quelle sono poi di fatti garage, box, piuttosto che le soffitte o i solai. Quindi, dicevo, devono sempre contemporaneamente esserci tre condizioni, quindi possesso proprietà, residenza anagrafica e dimora abituale. Un altro grappolo di domande che ricorrono abbastanza frequentemente sono quelle che in qualche modo sono strettamente connesse a questo concetto precedente, quindi capire quali sono le abitazioni che possono essere assimilate a quella principale, quindi ad esempio la casa coniugale assegnata a coniuge separato, oppure determinati tipi di assimilazione legate alla proprietà di abitazione da parte di possessori che appartengono alle forze dell'ordine, o ed è una querela rispetto a quello di cui si sta discutendo in questi giorni sulla legge di stabilità, le abitazioni concesse in comodato ad un parente di primo grado, quindi genitori o figli, che pare dal testo della bozza che sta circolando nella legge di stabilità che paradossalmente sia restrittivo rispetto al concetto attuale, che è delegato come tipologia di assimilazione alla diciamo così, alla delibera del comune. La devo fermarmi? No, ecco, invece casualmente ha già terminato anche il suo ragionamento, infatti, perché dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico. Sul traffico, poi naturalmente riprendiamo da che cosa? Dal fatto che si attendeva questa sanatoria del governo per i comuni che hanno deliberato in ritardo. Com'è finita rispetto alla nostra ultima puntata? Ci si affida la legge di stabilità che scatta dal 1 gennaio, in quel caso come funzionerà? Di fatto gli abitanti di questi 800 e passa comuni che hanno deliberato appunto in ritardo non sanno ancora bene quanto dovranno pagare entro 15 giorni. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. 3x5 20. Ad oggi non sono previsti contatti. Il governo sa qual è la posizione dell'ANCI rispetto a questo differimento, questa, tra virgolette, sanatoria, ripeto, non di aumenti ma di delibere formali. Noi non capiamo tanta rigidità. Mi sembra che non sia un peccato mortale voler, come dire, sistemare in maniera tale che il 2016 possa avere il debutto di un'Italia senza tasi ma anche senza nevrosi fiscali. La nevrosi fiscale, quella che lamentano molto spesso i commercialisti, Mauro Meazza, quando hanno periodi affollati di scadenze fiscali come quello di questo momento, che è tipicamente quello con cui si hanno a che fare con gli acconti, saldi dell'IRPEF. Sì, oggi è anche una giornata particolare perché 30 novembre termine ultimo per il pagamento del secondo acconto per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, e poi anche oggi ultimo giorno per presentare le domande per la voluntary disclosure, il rientro dei capitali. Insomma, c'è già un affollamento. Infatti. E poi per tutti quanti i proprietari di immobili, che sono milioni e milioni come sappiamo in Italia, c'è questo incombe, questo saldo del 16 dicembre. Allora, la voce della persona che avete sentito poco fa nel contributo che abbiamo mandato in onda era quella di Guido Castelli, presidente dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, istituito da ANCI, anche sindaco di Ascoli Piceno. Era intervenuto nel nostro programma lo scorso 17 novembre. 866 comuni ritardatari che hanno approvato le delibere relative alle aliquote di cui stiamo parlando questa mattina dopo la scadenza del 30 luglio, e in mancanza di un'approvazione da parte del governo centrale, che in realtà non vorrebbe dare questo via libera ai comuni ritardatari, non vorrebbe approvare questa sorta di sanatoria, naturalmente con questa mancanza di questo provvedimento del governo si fa sì che i contribuenti appunto di questi comuni siano senza conferme rispetto alla cifra esatta da versare con il saldo entro il prossimo 16 dicembre. Ma ce lo dicevamo Mauro Meazza, microfoni spenti, teoricamente dovrebbero essere in regola quei comuni che, anche se hanno varato in ritardo, hanno pubblicato le loro aliquote sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come fa ad essere valida dal punto di vista legislativo la pubblicazione su un sito? Perché lo dice la legge. Facendola molto semplice, il richiamo normativo è alla pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia. Quindi si potrebbe pensare che se quella è avvenuta tempestivamente, quelli il termine è più avanti, non è quello del 30 luglio, se quella è avvenuta tempestivamente, allora anche la delibera del comune è da considerare tempestiva. Però su questo non c'è certezza. Quello che è più probabile è che con l'approvazione della legge di stabilità, che avverrà poco prima di Natale, nei giorni prima di Natale, si sani la situazione. E se qualcuno degli abitanti di questi comuni ha pagato con le aliquote non aggiornate e dovrà fare probabilmente un conguaglio, con il che, devo dire, ulteriormente pasticciando la vicenda della tassazione immobiliare. C'era successo di raccogliere molte testimonianze in questo senso da parte di molti ascoltatori nella puntata precedente, di qualcuno che aveva già pagato volendosi liberare di questo, come dire, di questa incombenza fiscale, di togliersi questo problema. In realtà qualcuno rischia appunto di doverci ritornare con un pagamento aggiuntivo. Ma secondo te, Mauro, di questi 866 comuni, quanti faranno trovare una bella sorpresa sotto l'albero di Natale ai contribuenti? Nel senso negativo di aliquota un po' alta. E noi in realtà la settimana scorsa abbiamo presentato sul Sole 24 Ore una rilevazione media che segnalava come molti dei comuni stavano innalzando il prelievo. Quelli che erano in ritardo con l'aliquota era proprio perché erano intenzionati. Sì, e anche altri che comunque sono arrivati tempestivamente sono intervenuti per innalzare le percentuali. Quindi è probabile che quest'anno si riveli poi più costoso questo 2015 di quanto non sia stato il 2014. Ricordiamo che appunto se è intervenuto un cambiamento non si può replicare il pagamento dell'anno scorso, ma bisogna andare a controllare. Esatto. Sul sito naturalmente ci sono i siti dell'ANCI che riportano tutte le delibere, anche dal nostro sito si arriva al controllo delle delibere per verificare che non siano stati ritoccati, e spesso i ritocchi Non sono proprio favorevoli al contribuente, sono ecco, esatto, perché infierire. Apriamo la porta ai nostri ascoltatori. Ma volentieri, perché c'è Alessandro che arriva da Bergamo all'800240024, poi tanti messaggi al 349-238-6666, abbiamo anche WhatsApp, adesso li leggeremo. Alessandro, intanto buongiorno. Allora, c'è tra l'altro l'ascoltatore che ci chiede se il comune Prato Vecchio, provincia di Arezzo, Prato Vecchio Stia, ha deliberato. Adesso vediamo se riusciamo anche a trovarlo. Che facciamo un po' di fatica, però intanto noi andiamo ad Alessandro. Benvenuto Alessandro. Alessandro da Bergamo, ci ha fatto uno scherzetto? Sta rifacendo i calcoli anche per Va bene, Bergamo. Ha una seconda casa, lo anticipo io. Mirko Mion, vengo a lei. Ha una seconda casa. Dentro questa abitazione è abitata la sua suocera con contratto di usufrutto. Che cosa deve pagare in termini di fiscalità immobiliare? La suocera in questo caso non è un parente di primo grado, quindi il signor Alessandro dovrà pagare IMU e TASI. Se la suocera dovesse avere un contratto di affitto regolarmente registrato, pagherà eventualmente la sua quota di TASI dal 10 al 30% a seconda di come ha deliberato il comune, laddove chiaramente questa quota ecceda il livello minimo di nuovo definito dal comune. 800240024, il numero verde sempre a vostra disposizione, se chiamate poi magari rispondeteci mentre siete in diretta. Vogliamo ricordare anche le modalità di calcolo? Rifacciamo la formuletta magica che ci piace tanto, Mion. Insomma, da che cosa dobbiamo partire per stabilire qual è l'ammontare complessivo che dovremmo versare al fisco? Di che cosa dobbiamo sapere della nostra abitazione? Certo, dobbiamo avere un dato fondamentale che è quello della rendita, attraverso il quale con l'applicazione di un moltiplicatore, cioè moltiplicato per 1,05, quindi 5%, si genererà un altro numero che opportunamente, anche questo moltiplicato per un moltiplicatore fisso, che nel caso delle abitazioni è 160, genererà la cosiddetta base imponibile, sulle quali andremo ad effettuare il calcolo in termini percentuali a seconda dell'aliquota che il comune avrà fissato. Di conseguenza anche qui sarà importante verificare all'interno della delibera se sussistono determinate franchigie proprio in relazione alla rendita o attraverso degli altri indicatori come l'indicatore ISEE. A questo punto potrebbe essere il soggetto non obbligato al pagamento. Mion, la devo fermare perché abbiamo, forse anche in questo caso aveva già finito il ragionamento, siamo proprio allineati. Che cosa, allora, se non puoi lanciare il traffico puoi lanciare il GR, Mauro. Sì, però come sanno gli ascoltatori che si svegliano presto, il GR non è proprio nelle mie corde. Comunque io ci provo. Vai. Il GR! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Dal 4 dicembre Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà. Il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Cuore e denari. È aumentata la Tasi, Tairi, tutto, IOC, come si chiama, IUC. Non è vero che abbiamo tassato la casa, abbiamo... Cioè, come la Tasi, no? Come no, la Tasi, com'è? Cos'è l'innalzamento della Tasi? Ma lei... La tassa sui rifiuti, la Tari, mi pare si chiama, l'ultimo nome, se no... In Veneto Tasi vuol dire Taci. Tasi, si finisce RS, ora poi si fa Tati, Tavi, Tazi, Tafazzi, Gli italiani pagheranno meno tasse anche sulla casa e laddove ne pagano un po' di più dovranno parlarne col loro comune, perché la Tasi è una tassa comunale. Ecco, con questo mix di dichiarazioni degli ultimi anni abbiamo ben rappresentato il ginepraio fiscale legato alla nostra abitazione, agli immobili di nostra proprietà. A Cuore Denari stiamo facendo i conti con la Tasi, come si paga, quando, quanto. Come sempre vi aspettiamo con le vostre domande all'800 24 00 24. Vi ricordavate questa scadenza del 16 dicembre? Vi è tutto chiaro sul pagamento della Tasi o abitate in uno di quei 866 comuni che hanno deliberato in ritardo? Non si sa ancora se il governo varerà una sanatoria per questi comuni che teoricamente non sono in regola. Tutto un provvedimento di sanatoria, chiamiamola come vogliamo, potrebbe essere contenuto, è contenuto, sarà contenuto nella legge di stabilità. Mauro Meazza, ancora dobbiamo comunque parlare al condizionale, perché la manovra sì. Ecco, però su questo, addirittura d'arrivo. Su questo punto la questione è il quanto, non è che si debba sì, il quando, esatto. O meno pagare. Cioè il 16 dicembre anche in questi comuni si paga, il problema è quanto si paga, se si paga con le percentuali di prima che però possono essere giudicate non legittime, oppure se si paga con le percentuali corrette, insomma. Questo è il punto di discussione, però che si debba pagare è pacifico. No, lo ripeto perché appunto con la grande discussione che c'è stata in questi mesi... Non creiamo delle false aspettative. Se mai non si dovesse più pagare la tassazione sulla prima casa è tutto rinviato al 2016. Metà dicembre arriva, puntuale come le tasse d'altronde, il detto è stato creato proprio per quello. Allora Nicoletta, prima di sentire i due ascoltatori e di leggere i messaggi su WhatsApp che tu stai cortesemente monitorando, in realtà volevo levarmi lo sfizio di chiedere a Mion se è totalmente... No, non che voglia contraddire le sue risposte, poste assolutamente certe, però c'è un ascoltatore che non è molto d'accordo sulla questione che abbiamo affrontato prima, la suocera usufruttuaria di un'abitazione. Questo ascoltatore, Salvatore, sostiene che in realtà la suocera pagherebbe proprio perché paga l'usufruttuario. Lei è convinta al 100% della risposta che abbiamo dato in precedenza? Ma l'ascoltatore Alessandro di Bergamo, vero? Sì. Che aveva posto la questione relativamente al fatto che lui è proprietario di quell'immobile e l'ha dato in utilizzo alla suocera. Io sì, ho compreso che fosse un contratto di locazione. E mi pare che avessimo detto usufrutto? Ah, beh, allora sì, infatti tant'è vero che io avevo affermato che la suocera sarebbe andata a pagare una percentuale tra il 10 e il 30% nel caso di un contratto di locazione. Se usufruttuaria, quindi lo detiene a tutti gli effetti, sarà la suocera che dovrà andare a pagare le imposte. Sì, è corretta la chiave di lettura di chi ha fatto la... Adesso me la sono andata a riguardare nel modo, secondo me l'usufrutto l'avevamo citato, non ci siamo capiti, quindi colpa mia, perdonatemi tutti quanti. Detto questo, è importante aver certo, chiarito. Io non vorrei essere nei panni di Alessandro che adesso deve comunicare questo alla suocera. Esatto, e magari chiedergli anche insomma un contributo. Beh, detto questo, l'importante insomma che siano chiare le cose. Allora, cosa ci piace fare, Nicoletta? Leggere WhatsApp o dare la parola agli ascoltatori? Allora, intanto voglio fare gli auguri da Fabio di Pavia a Mauro, perché dice auguri a Mauro per la partita di stasera della Perfetto. Capolista. Quindi, sì, Nicoletta, tu fai adesso così giro il coltello dalla parte. In realtà questi non allora, sono auguri, è una gufata. Come è si una dice, gufata. Lo so, però io ho dovuto leggerlo. Per dovere di cronaca, noi siamo delle giornaliste, allora, sempre sulla notizia e sull'attualità, direi. Attualità. Ecco. Allora, possessore di un garage, nessun'altra proprietà, devo pagare IMU e Tasi per intero? Ci scrive Marcello da Livorno. Mirko Mion. Beh, certamente che sì, se ha una proprietà dovrà pagare, a meno che non sia una pertinenza, anche qui le casistiche sono molteplici, ma nel caso in cui ha soltanto la proprietà di questo garage dovrà pagare IMU e tasse. Oppure ci mette dentro la suocera. Esatto. Che vipere. Anche perché c'era stata quella richiesta del comune di Prato Vecchio, nel frattempo lei ha trovato di fare una verifica. Ma qua veramente. Il comune di Prato Vecchio non gli sfugge niente, di Arezzo ha deliberato l'aliquota TASI il 9 di luglio. Allora è regolarissimo. Quindi è regolarissimo e gli abitanti con possesso di abitazione principale, giusto per citare un'aliquota in particolare, dovranno pagare l'1 per mille e la quota a carico, quindi la percentuale a carico dell'occupante, sarà pari al 20% del tributo complessivamente dovuto. Benissimo. Giorgio dalla provincia di Mantova all'800 24 00 24, approfittate di questi ultimi minuti di consulenza radiofonica sulle scadenze fiscali di metà dicembre. Giorgio, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sto trattenendo il fiato. Bravo. Perché oggi è il 30 novembre, io sono un agente di commercio e abbiamo versato. Ma ci ha sentito anche venerdì, Giorgio, che eravamo alla manifestazione agenti.it, al forum agenti. Sì, ho ascoltato, ottima iniziativa, bello. Bene. Io sono, sul calare della mia attività, ho ancora, una decina d'anni di lavoro. Però hai voglia, Giorgio, a trottare, altro che calare. Pensi quanti respiri deve fare. Esatto. Trattenere. Allora andiamo alle scadenze sulla casa. La domanda è abbastanza complicata, ma più o meno la proprietà di mia figlia era fatta da un'unità immobiliare, una casetta, un piccolo garage, un pezzettino di terreno e quant'altro. Abbiamo chiesto al geometra, il nostro tecnico di fiducia, di accorpare, perché era frutto di più acquisizioni, di accorpare il tutto. Infatti a settembre mi è arrivata dall'agenzia del territorio l'accatastamento. Quindi? È stata pagata un acconto con la vecchia modalità, adesso devo pagare la rendita saldo, catastale, no? Presumibilmente cambiata. Quindi la base della fare? Conteggio tutto l'anno o da quando me l'ha mandata l'agenzia del territorio? Ottima domanda. Grazie Giorgio. Mion, cosa deve fare il nostro ascoltatore? A giugno, allora, per il versamento dell'acconto la rendita catastale era di un tipo, a settembre è cambiata, quindi il saldo va versato sulla rendita catastale nuova. Va versato tenendo conto del periodo prorata dell'assegnazione della nuova rendita con l'aliquota che avrà deliberato il comune, mentre invece per la prima parte dell'anno, essendo una rendita diversa, sarà stata calcolata con quella rendita e generando quindi la base imponibile prorata per il periodo precedente. Chiarissimo. Maria Cristina da Cremona invece che quesito ha? Quesito che riguarda, buongiorno. Innanzitutto, buongiorno Debora e grazie per l'aiuto. Dunque, volevo chiedere la conferma dell'esenzione dall'IMU per quest'anno. Mia figlia ha comprato una casa a luglio. Sì. Prima casa. Sì. Per l'IMU credo di sì, la TASI no però. Ecco, però per la TASI volevo sapere, lei ha fatto domanda di cambio di residenza lo stesso giorno del rogito. Sì. Quindi non ne paga? Cioè la paga per 6 mesi, voglio dire. Ah, ecco, certo, esatto. Grazie Maria Cristina. Mirko Mion. Il principio è sempre come quello precedente, nel senso che si applicherà un prorata di possesso in quanto la figlia della signora, se ho compreso bene, ha preso in proprietà e ha anche portato la sua residenza e quindi il domicilio nell'abitazione, mi pare di aver capito, attorno a giugno-luglio, quindi andrà a pagare per 6 mesi la TASI, non sicuramente l'IMU perché si tratta di abitazione principale. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura di questa prima parte, ultime raccomandazioni da dare ai nostri ascoltatori, Mauro Meazza, soprattutto a coloro coloro che sono ancora incerti sull'aliquota da applicare, a chi si devono rivolgere se naturalmente non hanno grande dimestichezza con internet e quindi non riescono ad andare su qualche sito a cercare se il comune ha deliberato o meno qual è il valore appunto dell'aliquota applicata. Devono aspettare delle novità, in quali tempi? Qualcuno li chiamerà loro, li telefonerà per spiegare loro quanto devono pagare? Non credo che il fisco anche locale sia così, voglio usare una parola esotica, user friendly, ecco. Quindi bisognerà un po' arrangiarsi. No, allora il consiglio, partiamo da quello che è reperibile, diciamo, prima delle delibere, ed è oggi con il Sole 24 Ore questa guida con anche delle risposte a quesiti. Da domani sarà poi in edicola un fascicolo a parte, sempre dedicato al pagamento di IMU e TASI. Poi la verifica sui siti è molto utile, attenzione a quello che cercate, attenzione a verificare esattamente le delibere. La lettura delle delibere, vorrei avvertire gli ascoltatori, non è sempre semplicissima, perché spesso le delibere sono scritte in gergo, sì, diciamo in un gergo non immediatamente comprensibile, e quindi diventa particolarmente faticoso decifrarla. Allora, a questo proposito è sempre buona norma rivolgersi a dei professionisti. Mion con i geometri fiscalisti, ma i commercialisti, esatto, avvocati che si occupano, professionisti che si occupano della materia, ecco, di modo, se ci sono dubbi anche di infatti questo tipo che abbiamo sentito, cioè cambi di proprietà, spostamenti di residenza in corso d'anno che possono generare delle perplessità. Con il fisco il fai da te non è mai tanto raccomandabile. Aggiungo, ultima informazione, che per tutti coloro che volessero avere un aiuto, noi siamo qua a disposizione, cuoredenari@radio24.it. Mirko Mion risponde sempre a tutti, quindi abbiamo aggiunto un canale ulteriore. Mauro, grazie. Grazie a voi. Alla prossima, buoni concerti. Naturalmente il prossimo di Chapter 11, veloce veloce. È proprio giovedì prossimo. Qui al Sole 24 Ore, sì. Devolverete a chi? Devolviamo questa volta a Save the Children, per un'iniziativa molto bella che si fa in Italia, che si chiama Punti Luce, Illuminiamo Benissimo. Il Futuro. Mandaci qualche video che lo mettiamo su Facebook e così facciamo vedere agli ascoltatori che cosa combinate. Ma molto volentieri, grazie. Grazie a Mauro Meazzi, adesso a Mirko Mion. E a Mirko Mion, che speriamo di ritrovare prestissimo. Grazie. Il nostro ascoltatore Giorgio dalla provincia di Mantova ci ha chiamato e ha detto: sto trattenendo il respiro, non è tanto una buona idea. Adesso noi proviamo a sciogliere il nostro respiro, lo sentiamo, prendiamo consapevolezza, portiamo anche il respiro sul lettino del nostro prossimo ospite. Ve l'avevamo promesso, tiriamo un bel respiro per allentare quella morsa che lo stress e le preoccupazioni procurano. Insomma, proviamo a sciogliere le tensioni. Ci aiuta oggi Benedetta Spada, insegnante di mindfulness e di yoga, che è qui in studio con noi. Ciao Benedetta, bentornata. Ciao, buongiorno a tutti. Già noi respiriamo meglio, altro vero? Che guarda come siamo più distesi anche, vero, sul volto. Già vedere tutto. Voi, ecco, se voi volete vederle, soprattutto seguire gli esercizi di Benedetta Spada, andate sulla pagina di Cuore Denari, dove trovate delle indicazioni, proprio una respirazione per ogni situazione. Benedetta, facciamo un bel respiro, così sciogliamo tutte quelle tensioni che inevitabilmente quest'idea non è solamente un'idea, ma dobbiamo, le tasse si devono pagare, gli affanni ci sono. Come tu dicevi, Nicoletta, appunto Giorgio trattiene il fiato, e quando noi siamo tesi tendiamo a trattenere il fiato, cosa che assolutamente non aiuta e non agevola ad affrontare anche lo stress. Quindi ritorniamo al respiro addominale. Perciò portiamo l'attenzione sulla nostra pancia e, come un palloncino, quando noi inspiriamo gonfiamo questa pancia d'aria. E quando espiriamo la sgonfiamo, riducendo al minimo l'aria nello stomaco, appunto. Perché portare l'attenzione sull'addome? Perché spesso l'attenzione è sui nostri pensieri, sui problemi, sulla mente, e questo ci fa essere molto vulnerabili e quindi spesso a cadere in tensione. Il ritornare in ogni momento della giornata sulla pancia, sull'addome, ci permette non solo di calmare la mente, ma di stare meglio, di funzionare anche meglio. Benedetta, tu hai parlato di inspiro ed espiro. Allora, sono due fasi del nostro respiro che è tra l'altro automatico, no? Noi, anche se possiamo trattenerlo il fiato consapevolmente o inconsapevolmente, respiriamo, e meno male, perché sennò non saremo qui a raccontarcela, no? Però ci sono delle persone che senza saperlo respirano al contrario. Esatto, è così? Esatto, quindi scorrettamente, e per questo spesso hanno anche delle patologie o dei disagi non da poco. E il respiro al contrario cosa significa? Allora, in una respirazione corretta, quando noi inspiriamo, come abbiamo detto prima, espandiamo l'addome, solleviamo la cassa toracica, e quando espiriamo svuotiamo l'addome e la cassa toracica si raccoglie. È un po' come una fisarmonica. Esatto, la pancia. Esatto, è un movimento a fisarmonica, ma ci sono persone che senza accorgercene, e moltissime, respirano inspirando ritraendo l'addome ed espirando buttandolo in fuori, e questo provoca effettivamente non pochi danni al nostro sistema. Vi dico già che lo stavo facendo io, perché mi sono concentrato un attimo, stavo viaggiando al contrario. Allora, ottimo. E voi come respirate? 800 24 00 24, diteci anche come si comporta il vostro respiro, se si spezza, se si fa corto, se vi manca, se avvertite quella strana sensazione che etichettiamo con fame d'aria, può capitare. Allora, noi ci facciamo aiutare oggi anche da un amico di Cuore Denari, il dottor Roberto Boffi, che è responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, soprannominato il nostro dottor Fumo, antifumo. Dottor Boffi, buongiorno. Buongiorno, oggi sono dottor Respiro, però. Dottor Respiro, perché la nostra vita inizia e finisce con un respiro. L'aria ci tiene in vita, al pari proprio del cibo e dell'acqua, è un nutrimento ed è un carburante straordinario, che tra l'altro è sempre a portata di naso, dottor Boffi. Beh sì, il nostro corpo, come ha detto la collega in studio, è una macchina perfetta, una macchina che funziona con la benzina più ecologica che esista, che è l'ossigeno, però bisogna ricordarsi di respirare bene e di intrappolare aria buona, prendere uno spicchio di cielo dentro di noi e possibilmente, diciamo, un'immagine un po' poetica, con tante stelle e poco PM10, poco inquinamento. Lei si riferisce sicuramente ai dati, li abbiamo ascoltati nel nostro GR, l'Italia è il paese dell'Unione Europea che segna il record del numero di morti premature rispetto alla normale aspettativa di vita per l'inquinamento dell'aria. Sì. La stima arriva proprio dal rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Dottor Boffi, respiriamo, ma respiriamo anche aria inquinata. Ci sono degli studi molto interessanti che naturalmente hanno correlato questo problema che è fattore di numerose patologie. Sì, perché questa straordinaria capacità di filtro che hanno i nostri polmoni, il nostro studio di alcuni anni fa dell'Istituto dei Tumori aveva dimostrato che in ogni atto inspiratorio normale, a volume corrente, come si fa comunemente respirando, tratteniamo il 50% delle polveri sottili, il famigerato PM10 che viene liberato da una sigaretta piuttosto che da un motore diesel. Per cui questa capacità di filtro, che è ancora più perfetta nelle persone sane, nelle persone giovani, nei bambini, determina anche quindi una sporcizia dentro i nostri polmoni, e purtroppo è drammatico l'idea che a causa di un inquinamento atmosferico la nostra aspettativa di vita possa essere inferiore già dal momento della nascita. La cosa più brutta è la qualità della nostra vita, che rischia di essere pesantemente condizionata a partire da quella cosa di cui ho parlato prima, cioè la fame d'aria. Dottor Boffi, parleremo della fame d'aria, del respiro che improvvisamente accelera, che diventa faticoso, che si spezza, ma lei ha detto oggi sono il dottor Respiro. Ritorni il dottor Antifumo. Molte persone continuano a fumare perché non hanno intenzione di smetterlo, dicendo beh, tanto viviamo in città così inquinate che se non fumo intanto è l'aria che mi fa quello che fa la sigaretta. Non è una buona giustificazione, dottor Boffi? No, assolutamente, questo è un alibi che io mi sento ovviamente dire spesso dai fumatori cittadini. È vero che l'inquinamento è gran parte, cioè è responsabile di parte delle morbilità e delle mortalità dovute alle malattie respiratorie. Ogni volta che aumenta, c'è uno studio americano molto importante pubblicato su New England alcuni anni fa, che ha dimostrato che in 20 città americane ogni volta che aumentava di 10 microgrammi il PM10 medio in quella città, aumentava la mortalità dello 0,6% i giorni successivi. Però questo non può essere, non deve essere assolutamente un alibi per i fumatori. Intanto le due cose si sommano, anzi si potenziano vicendevolmente, e poi il fumo è purtroppo nettamente più eziole causa di malattie cardiache, respiratorie, oncologiche rispetto all'inquinamento. Allora, intanto ai fumatori 800 24 00 24, fate un bel respiro, chiamateci, parleremo anche delle indagini che sono consigliate, degli esami che possiamo fare per valutare lo stato di salute del nostro benessere. Il dottor Boffi ci segue fino al termine di Cuore Denari. Intanto ci aiuta anche Benedetta Spada, che oggi ci propone la carta del respiro, la potete anche vedere sul video, sulla nostra pagina di Cuore Denari. Benedetta, è una carta del respiro che è fatta a step, ce le vuoi illustrare? Perché poi per i dettagli naturalmente invitiamo gli ascoltatori a trovare le indicazioni e anche le soluzioni sulla pagina di Cuore Denari. Li vediamo brevemente tutti, ricordando che questa carta del respiro ci permette di fare anche un check-up del nostro stato di salute. Il nostro corpo tutto respira e semplicemente noi dobbiamo concederci pochi minuti tutti i giorni, preferibilmente la mattina, e portare le nostre mani a contatto con il corpo in determinati punti per far sì che le nostre mani diventino come orecchie e ci permettano di comprendere dove noi percepiamo il movimento delle pareti muscolari ad ogni inspiro ed espiro, e laddove noi non lo percepiamo, comprendere che magari in quella parte del corpo vi sono tensioni o traumi sui quali possiamo lavorare. Quindi il primo punto, il primo step, è portare la nostra mano destra all'altezza dell'addome. Con il palmo della mano destra andiamo a toccare l'addome, con il dorso della mano sinistra andiamo a toccare la zona di retro, diciamo correlata, quindi più o meno alla stessa altezza. Ci concediamo 3-4 respiri spontanei, quindi non andiamo a forzare il nostro respiro. Restiamo lì e prendiamo appunti sulle sensazioni che ne sopraggiungono, quindi se sentiamo, percepiamo movimento respiratorio o meno. E quanto? E poi si sale. Adesso però facciamo un bel respiro, intanto concentriamoci con questi tre respiri a livello del nostro ombelico, perché quella è la posizione, mano destra. Io sono mancina, metterò la mano sinistra, va bene uguale. Intanto vediamo se Deborah ci fa fare un bel respiro con le notizie sul mercato, se lo fa trattenere. Vi preannuncio che oggi... Vedi? Anche i mercati ci fanno fare una ginnastica respiratoria. Grazie. A tra poco. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Cuore e denari. With every sadness I deny, I feel a... Respirate con noi, 800 24 00 24, fate sentire il vostro respiro e fate con noi la carta del respiro insieme a Benedetta Spada, insegnante di yoga e di mindfulness, e insieme al dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il nostro dottor antifumo che oggi diventa il dottor respiro. Benedetta, abbiamo anticipato la carta del respiro che trovano anche sulle pagine di Cuore Denari, ma i punti in cui prendere consapevolezza, trasformare le nostre mani in orecchie per sentire se qualcosa si muove, perché a volte rimane tutto fermo come se fosse una pietra, in realtà un movimento dovremmo avvertirlo, ma i punti per capire se questo movimento lo avvertiamo sono ombelico, abbiamo detto l'addome, l'ombelico. Il secondo punto importante, centrale, sono i fianchi sopra le crestelia, che noi portiamo le nostre mani di taglio interno e restiamo lì sempre per questi classici tre respiri spontanei. Poi dopodiché portiamo il dorso delle nostre mani sotto il cavo ascellare, quindi i pollici restano verso l'esterno, e anche qui tre respiri spontanei. Quindi portiamo la mano destra, se siamo mancini, la sinistra all'altezza dello sterno, e la mano, l'altra mano, proprio dietro. Chiaramente se per alcuni è difficoltoso portarla alla stessa altezza, andrà bene anche un poco più sotto. E questi sono i punti centrali della nostra carta, del nostro check-up del respiro. Allora, molto probabilmente alcuni di voi si saranno, avranno preso consapevolezza di respirare in modo inverso, contrario. 800 24 00 24. Oggi Benedetta Spada suggerirà a richieste esercizi per rispondere a tutte quelle sensazioni di disagio che il nostro respiro può procurarci, a patto che il respiro lo stiamo ascoltando. Dottor Boffi, è difficile capire come funziona il nostro respiro se non ci fermiamo ad ascoltarlo, oppure se il nostro respiro non dà proprio segni evidenti che qualcosa non va, ed è questo che è un po' il tema su cui invito i nostri ascoltatori a partecipare. Quando il respiro si fa corto, diventa affannoso, rumoroso, quando manca, provocando quella strana sensazione di fame d'aria, quando avvertiamo una fatica, un respiro affannoso nello svolgere delle normali attività, tre scalini, ci viene subito l'affanno, occorrere magari a prendere un attimo il tram, diventa tutto difficoltoso. Dottor Boffi, ci guidi lei. Sì, il sintomo della mancanza d'aria, la cosiddetta dispnea, è veramente un sintomo più soggettivo che esista. Perché ci sono molte componenti, quella ambientale di cui abbiamo parlato finora, il fumativo, il fumo passivo, l'inquinamento, e poi anche quella soggettiva, no? L'ansia, la mancanza di forze, le emozioni, il nervosismo che possono condizionare la nostra percezione, per cui si fa fatica a quantificare la fame d'aria. Però ci sono dei metodi anche semplici, in particolare ci sono delle scale della dispnea, appunto della fame d'aria, che cercano di oggettivare questo sintomo per capire se la persona che abbiamo di fronte quando noi medici la riceviamo nel nostro ambulatorio è veramente una persona con problematiche respiratorie polmonari o solo soggettive, emotive. Ne passo tra poco i nostri ascoltatori perché facciamo un'autovalutazione in diretta guidata proprio dai nostri esperti. 800 24 00 24. Intanto a volte il nostro respiro si fa rumoroso, non pensate solamente a quello del vostro partner che russa accanto a voi disturbando le vostre notti, no, io parlo di un altro suono. Dottor Boffi, è una specie di sibilino che alcune persone avvertono. Sì, mi aiuta a descriverlo, poi andiamo subito ai nostri ascoltatori. Voglio che questa parte di trasmissione, come è stata la parte condotta da Deborah, sia molto pratica. Ecco, le malattie respiratorie danno dei sintomi e dei segni. Sì. La fame d'aria, dispnea, è un sintomo, quindi non è percepibile dagli altri. Invece ci sono i segni, uno è la tosse e l'altro sono i sibili che possono essere percepiti anche dagli altri, e questi sono più facilmente originati da patologie polmonari o bronchiali come l'asma ad esempio, o le infezioni respiratorie. Queste che si verificano soprattutto di notte quando siamo supini sono facilmente dovute al cosiddetto broncospasmo. Allora, segni e sintomi, mettiamo come anticipato il respiro sul lettino, ci aiutano Benedetta Spada e il dottor Boffi che si mettono subito al lavoro per IBA che ci chiama da Venezia all'800 24 00 24. Bonjour. Buongiorno. Abbiamo dato anche un carattere internazionale oggi al programma, non si sa allora, mai che qualcuno... Iba. Salve, buongiorno. Sì. Io praticamente soffro di una displea, ansiosa, mi hanno detto. E tutto è iniziato con una tachicardia notturna, cioè tutto è iniziato di notte, praticamente un mesetto fa, con una tachicardia, tremavo, non ce la faccio respirare. Sì. Sono stata al pronto soccorso, mi hanno fatto un elettrocardiogramma, mi hanno fatto esami, ecografia al torace, è tutto negativo. Sì. Però lo stesso... Però questa ansia, ecco, ricordiamo, e ci aiuta il dottor Boffi, che non possiamo naturalmente fare diagnosi telefoniche, ma, tantomeno farle io che medico non sono, ma da quanto descrive Iba potrebbe trattarsi di un attacco di panico che ha dei segnali, no? Alcuni respiratori, altri che mimano un po' un attacco cardiaco. Ve la affido perché Iba, Benedetta, ha detto sicuramente mi dicono che è un problema, una disponibilità. Ne ha da ansia. L'ansia ci toglie il fiato, questo lo sappiamo, e quindi noi possiamo restituire fiato al nostro benessere come imponendoci ogni tanto di respirare come si deve. Di fermarci. Sì. Di fermarci e di ascoltare il nostro respiro. Appunto Iba diceva che l'ansia in qualche modo spezza il suo respiro e quindi è importante ritornare da questo stato d'ansia, quindi dal centro della testa, della mente, alla pancia, proprio alla pancia, come fanno i bambini. I bambini respirano portando l'attenzione e la percezione sulla pancia. È da fare questo più volte al giorno in questo caso, quindi un po' con volontà, come un esercizio. Quindi come gonfiare, la pancia come un palloncino. Esatto, e sgonfiarla proprio come se noi sgonfiassimo un palloncino d'aria. Magari per aiutarsi inizialmente, quindi per esercitarsi più praticamente, farlo espirando dalla bocca, quindi inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. E questo è una indicazione, noi dobbiamo imporlo, quindi è il cervello che guida il nostro respiro, ma è magnifico sapere, le ricerche lo dimostrano, che il respiro poi guida anche il nostro cervello, per cui c'è una corrispondenza straordinaria tra queste due dimensioni e una diventa aiuto dell'altra. Assolutamente. Noi ci fermiamo subito dopo il dottor Boffi per valutazioni, indicazioni e suggerimenti. Continuate a chiamarci, abbiamo tempo sino alla fine del programma per raccogliere le vostre telefonate e le vostre richieste. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Ma tu che ti senti? Che disturbi hai? Aridai, sono tossicato, non posso respirare, me strozzo. Sì? A notte devo dormire in piedi, se mi metto giù fischio. Così? Siamo tornati insieme, oggi stiamo parlando di respiro. 800 24 00 24, raccontateci il linguaggio del vostro respiro, come respirate. In linea con noi il dottor Roberto Boffi, in studio qui con noi Benedetta Spada, a vostra disposizione con il nostro numero verde. Chiamateci e raccontateci anche le occasioni in cui i cambiamenti del respiro hanno anticipato e magari reso manifesti stati d'animo che non riuscivate a raccontare, e anche le occasioni, i momenti, le situazioni in cui il respiro si blocca, diventa pesante, ve lo sentite un po' rotto. Dottor Boffi, che cosa le suggerisce la telefonata della nostra ascoltatrice di Venezia, che è finita al pronto soccorso, le hanno diagnosticato una dispnea da stress, è una ragazza giovane, quali sono i suoi suggerimenti? No, chiaramente i colleghi del pronto soccorso hanno fatto il loro dovere, hanno escluso patologie importanti tipo una polmonite o un infarto in quel momento, però se il sintomo ricomparisse, come dicevo prima, magari può essere più frequentemente di notte, un paziente anche giovane ad avere fame d'aria, va sicuramente indagato meglio, ad esempio direi soprattutto facendo una spirometria, cioè una prova della funzionalità respiratoria per smascherare un eventuale asma, che potrebbe essere un asma notturno, un asma da sforzo, e in caso di una spirometria normale, un sintomo che ricompare ancora frequentemente, si fa un test da noi in pneumologia che si chiama test con metacolina per verificare che non ci sia un'iperattività bronchiale, cioè un asma che si manifesti solo in determinate situazioni, che possono essere da inquinamento ambientale o da digestione difficile o anche da postura, cioè da una situazione come si verifica normalmente di notte, in cui il centro del respiro è anche meno efficiente. Quindi sono indagini non invasive, dottor Boffi, che permettono al medico di avere ben chiara la situazione. Sì, io ricordo sempre che c'è una grandissima nuotatrice, Federica Pellegrini, non rivelo un pettegolezzo, l'ha letto sui giornali, si trova l'ha detto anche internet, lei, sì. Che era asmatica e ogni tanto sveniva dopo le gare di lunga durata di nuoto, e dicevano che aveva attacchi di panico, cose di questo genere, e poi i colleghi a Verona, che hanno poi indagato con la spirometria e col test alla metacolina, avevano verificato che era asmatica, e poi sappiamo tutti cosa è riuscita a vincere nel mondo con gare pesanti, importanti a livello respiratorio come quelle di nuoto. Dottor Boffi, perché ci sono tante persone, alcune persone che sono asmatiche, sembra una cosa assurda, ma senza saperlo. Allora, quali sono i segnali che una persona deve tenere, segnali e sintomi, no? Che, e suoni che una persona deve conoscere per riferirli al medico? Perché noi diciamo sempre, Cuore Denari vuole fare prevenzione e stile di vita, ma senza l'informazione non ci può essere prevenzione. Quindi, agli ascoltatori, quali sono i messaggi che lei vuole sottolineare e le informazioni che vuole dare? Il primo messaggio è che l'asma, così come la bronchite cronica, sono patologie sottodiagnosticate, e questo è molto grave, proprio perché si fanno poche spirometrie. Però gli asmatici sono molti, anche giovani, molte volte sono allergici, quindi se c'è una componente allergica alimentare o respiratoria, già questo potrebbe essere una spia d'allarme, sospettare un asma a fronte di sintomi o segni, come dicevamo prima, cioè affanno, i fischietti notturni, la tosse, e poi delle semplici domande, cioè la manifestazione di fame d'aria, come dicevo prima, con questa semplice scala si rivela soprattutto in situazioni di maggior esigenza di ossigeno, no? Tipo le camminate veloci. Allora, se uno ha affanno anche a riposo, che è il grado 4 della scala della dispnea cosiddetta MRC, allora è sicuramente qualcosa di costante, di persistente, da indagare rapidamente. Però ci sono gli affanni, le dispnee moderate, quelle che si verificano quando si fanno degli sforzi modesti, come vestirsi, camminare, fare due passi un po' veloci, oppure ci sono quelle lievi che si hanno quando si prova disagio, fame d'aria, solo camminando velocemente o correndo o facendo le scale. Però già queste non andrebbero sottovalutate, perché l'affanno è comunque qualcosa che si può combattere, e l'asma bronchiale in particolare è una malattia che è assolutamente vinta, basta semplicemente curarla come è giusto fare. Dottor Boffi, Simonetta ci scrive di chiarire la fame d'aria da postura, che cos'è? Lei l'ha citata? Beh sì, diceva la collega fisioterapista che è importante la ventilazione diaframmatica, no? Cioè muovere la pancia per inspirare. Noi tutti ci concentriamo troppo sull'espirazione, non sull'inspirazione, cioè sulla capacità che noi abbiamo, in particolare con questo muscolo principale della respirazione che è il diaframma, di prendere l'aria. Poi l'espirazione è un ritorno automatico, uno svuotarsi automaticamente dei nostri polmoni. Quando siamo sdraiati facciamo più fatica a respirare bene con la pancia, e soprattutto se abbiamo mangiato tanto alla sera, e quindi è importante iniziare bene la giornata e finire bene la giornata facendo degli esercizi di meccanica respiratoria, in modo di utilizzare la parte più importante che è dei nostri polmoni, che sono le basi, dove c'è un rapporto tra ossigeno e sangue molto migliore, quindi la respirazione fatta con le basi polmonari è molto più efficiente e meno faticosa. Allora, tossisco e fischio nel respiro dopo la corsa. Ho 30 anni, corro due volte alla settimana. Rivolgiamoci anche agli sportivi, esatto. Dottor Boffi, che con il respiro hanno un rapporto più diretto, perché il ritmo del loro respiro dà anche informazioni sul tipo di allenamento. Poi ci affidiamo ancora a Benedetta. Assolutamente deve continuare a fare sport, però c'è la cosiddetta asma da sforzo, che si cura bene, si evidenzia con questo test che ho spiegato rapidamente prima, che si chiama test con la metacolina. Se tu sai che hai l'asma solo da sforzo, io ho dei pazienti anche giovani che giocano a pallavolo, quindi basket, se dopo l'attività sportiva il vostro respiro fischia, esatto, fatevi un test. Fanno uso di un broncodilatatore o di un'associazione tra broncodilatatore e cortisonico per via inalatoria, 20 minuti, un quarto d'ora prima dello sforzo, prima dello sport, magari tre volte alla settimana, prima dell'allenamento, prima della gara, e sono normalissimi, non è considerato doping, fanno certo anche attività agonistica. L'importante è individuarla. Dottor Boffi, la stoppo per dare 30 secondi un esercizio di Benedetta Spada, con cui ci salutiamo, per avere proprio un po' un respiro che ci accompagni un po' per tutta la giornata. Benedetta. È importante ricordare come portare l'attenzione anche su un'attenzione rivolta in maniera benefica sul nostro corpo, quindi non solo come inspiriamo ed espiriamo, ma anche delle tecniche di automassaggio che possiamo concederci proprio come in questo caso quando magari abbiamo affanno o tosse, e quindi portare una mano all'altezza dello sterno e iniziare con questa mano degli automassaggi circolari, sia in senso orario che in senso antiorario. Questo lo facciamo più volte anche nell'arco della giornata e, come ricordava appunto il dottor Boffi, anche stare attenti a quello che noi mangiamo, perché quello che noi mangiamo può influenzare la nostra capacità di utilizzare il respiro. E concludo, scusa Nicoletta, solo dicendo che tutto quello che ci siamo detti, quindi anche il nostro check-up del respiro, non si sostituisce a indagini mediche, ma è un valido supporto. Una mano lava l'altra. Dottor Boffi, grazie. Grazie a voi. Grazie molte. Potete vedere gli esercizi di Benedetta Spada sulla pagina di Cuore Denari. Noi invece torniamo domani. Mi raccomando, fate i bravi, nostra assenza. Ritorniamo qua domani mattina alle 10:30. Buona giornata a tutti.